che l'andatura è subito molto molto veloce e vediamo se va a prendere la testa, la testa, la testa, la testa, la testa. Vediamo cadere, vediamo cadere, vediamo cadere. Ma si è rimesso in gara? No, no, ancora là. È ancora a terra. Ma si è rimesso in gara? No, no, ancora là. È ancora a terra. Vediamo la disperazione, disperazione, disperazione, disperazione. Più agili nel superamento delle siepi, delle barriere, i due inseguitori. Inseguitori, inseguitori. Vittoria sorprendente. Ed ora vediamo la gioia incontenibile. Incontenibile. Eccoci qua come ogni domenica, puntualmente in ritardo come al solito, con 3000 siepi. Quest'oggi sarà una puntata fatta di tante chicche ma tutte piccole piccole, perché c'era il sole e quindi la Gina è andata a correre e non ha preparato niente, colpa sua, colpa sua. Era per non ammorbarvi. Basta Gino scuse. Oggi. Sì, infatti, no, io non sono andato a correre, effettivamente avrei dovuto studiare un sacco, ma anche io oggi sono stato negligente. Allora, oggi principio io, in realtà volevamo fare un piccolo excursus storico di una cosa che abbiamo accennato un sacco di volte in queste puntate, cioè che essendoci focalizzati un sacco su cose accadute intorno agli anni 30, inizio secolo, non solo, ma ne abbiamo parlato molto, e spesso citiamo internazionali socialiste, citiamo posizioni della sinistra di quel tempo, posizioni dei vari partiti comunisti, eccetera, riferiti allo sport. E allora, anche per mettere ordine soprattutto nelle nostre teste confuse, abbiamo deciso di approcciare la cosa in maniera più sistematica e provare a fare una mini storia che si arresta sempre nei primi del Novecento, di quelle che erano le posizioni all'interno del panorama della sinistra espansa in quel periodo. Cioè, la Gine mi fa segno che vuole parlare. Prego. Sì, volevo dire una cosa per di puntualizzazione, che non esiste in Italia un archivio che dove si trovino catalogati o raccolti e ordinati i documenti relativi a questo. Quello che si trova è frutto del lavoro di ricercatori che pazientemente hanno girato varie sedi di associazioni sportive e hanno spulciato un po' nei documenti, ecco. E questo è una particolarità italiana, all'estero si trova meglio. Sì, in realtà poi è in parte spiegata da una cosa che illustreremo bene dopo, ma da un atteggiamento che un po' la sinistra appunto espansa italiana ha avuto per gran parte dell'inizio secolo nei confronti dello sport, che viene riassunta qualche volta come antisportismo di sinistra. Però oggi in realtà le notizie, appunto, per una vera nostro problema di recuperare le fonti, quelle di cui parleremo oggi le traggo in particolare da un libro della Odradek che si intitola Sport e Rivoluzione, ed è una serie di saggi, alcuni di questi parlano anche appunto dell'evoluzione dello sport all'interno del pensiero della sinistra, in particolare di quegli anni del primo secolo, che sono quelli che noi vorremmo andare a battere con la trasmissione di oggi. In particolare, io dopo un'introduzione un po' più generica, vi parlo sostanzialmente di solo due paesi, tutti quelli che iniziano con la I, che sono l'Inghilterra e l'Italia, cioè che sono gli unici di cui ho trovato delle informazioni che iniziano con la I. Non so perché ho scelto la I, ma mi è venuta così. Forse perché la prima che ho incontrato in Inghilterra, poi ho detto vabbè, allora parliamo anche dell'Italia, e allora è venuta fuori la puntata di oggi. Le due grosse diciamo, correnti diciamo, del pensiero sportivo e delle organizzazioni che caratterizzavano l'inquadramento, diciamo, della sinistra e l'atteggiamento della sinistra d'inizio secolo riferita allo sport, sostanzialmente si dividono in due grosse strutture. Una era la struttura più legata ai partiti, cioè alle formazioni socialiste, e in particolare, ora vado a controllare perché non sono sicuro di ricordare giusto, però i paesi aderenti erano soltanto tre, cioè Belgio, Francia e Gran Bretagna, e che avevano dato vita all'inizio del secolo, quindi nel 1913, a un'internazionale sportiva socialista che poi, dopo la guerra, cioè dopo la guerra del 15-18, ricambia nome e diventa Internazionale Sportiva di Luserna. E così viene conosciuta dai posteri. L'altra grossa struttura, che non nasce in contrapposizione, diciamo, di intenti, ma in contrapposizione un po' ideologica, è lo Sportintern, che invece è un'emanazione diciamo, di tutta l'area più sovietica, diciamo, quindi un'emanazione del Comintern sostanzialmente, e racchiude però molti più paesi. Viene citata qua la Cecoslovacchia, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Italia, la Svezia, l'Ungheria e tutto un ampio spettro di paesi, mentre quell'altra era un pochino più ridotta. Nel libro c'è anche una parte abbastanza interessante su diciamo, la visione dello sport che avevano due personaggi che sono abbastanza boh, protagonisti del pensiero, diciamo, della sinistra espansa, appunto, dell'inizio secolo e anche dopo, che sono Marx e Engels. Li avrete sentiti nominare qualche volta. Uno era Engels, un cavallerizzo, pare valente, così viene definito dal libro, quindi era bravo, sapeva andare a cavallo. E Marx invece era un appassionato frequentatore delle sale di scherma e di tirassegno. E poi, attenzione, attenzione, era un abilissimo giocatore di scacchi, pare. Anche se qua l'unica cosa che cita è una sua sconfitta. Quindi era abilissimo, però ha perso con un personaggio che io non conosco, ma deve essere uno scacchista famoso. C'è anche una nota che poi dice chi è questo personaggio. Magari la prossima volta vi racconto con chi ha perso a scacchi Marx. Come Bellissimo. si è permesso? Ha fatto bene. Se uno è più bravo, cioè, così funzionano gli scacchi. Sono uno sport spietato e peraltro ferocissimo e violentissimo. Per davvero, non è che sto scherzando. È interessante poi andare a vedere come, diciamo, come evolve all'interno dei singoli paesi la questione dello sport. In realtà, all'inizio, che ho preso tutti quelli con la I, però in realtà era più, per me quello che mi interessava era fare un raffronto tra un paese in cui le cose hanno preso una direzione e l'Italia, che invece le cose all'inizio avevano preso una direzione completamente opposta. In Inghilterra, infatti, già nella fine dell'Ottocento esistevano dei club di rugby che erano particolarmente seguite. Esisteva un campionato dilettantistico, e in questo libro viene citato come espressione di una componente, boh, che loro definiscono di classe, il fatto di aver spinto fin dall'inizio sostanzialmente per abbandonare il dilettantismo, perché il dilettantismo era visto come espressione di un'aristocrazia, cioè tu puoi fare il dilettante se te lo puoi permettere, se io devo andare a lavorare non me lo posso permettere, quindi mi devi pagare per fare lo sport. E quindi le prime rivendicazioni del campionato rugbistico furono quelle di avere gli allenamenti pagati e E poi quello di avere delle forme, diciamo, strutturate, cioè dei club. E questa, diciamo, questa visione caratterizzava soprattutto quelle aree che erano più ad alta diffusione industriale, quindi lo sport nasceva in qualche modo all'interno dello sviluppo della metropoli, no? Della città industrializzata. Oltre al rugby, chiaramente, in Inghilterra c'era anche un grosso interesse per il calcio. E anche qui le squadre spinsero fin dall'inizio per questo inizio di professionalizzazione. C'è uno studioso che viene citato qua nel libro che si chiama Hobbs Bawum, che l'ho letto malissimo probabilmente, ma non so assolutamente di cosa sto leggendo. Poi Gine ve lo pronuncia Osbam. precisamente. Ah, Osbam, era facile, bastava chiederlo a Gine. E lui dice, cita in maniera arguta, già non è arguta, non è vero, da osservatore qual era, che effettivamente le attività di queste società sportive diventano immediatamente in grado di conquistare il favore delle masse, e di fatto il calcio diventa una specie di lingua utilizzata quasi per creare un meccanismo per facilitare la socialità, cioè nel senso che tu vai al bar e parli di calcio, e questa è una specie di linguaggio universale che ti permette di approcciarti anche ad altre persone in qualche modo del tuo stesso, nello specifico dell'analisi loro, che era un'analisi appunto di classe sulla realtà operaia, ad altri operai come te, in cui il primo approccio è parliamo di calcio. E questo viene visto in maniera in qualche modo positiva come fenomeno di aggregazione. Un'altra cosa che è interessante per i nostri interessi anche di vita, cioè miei della Gine, è la presenza del pugilato, nel senso che oltre al rugby, al football e al calcio, esistevano a Londra 25 club operai, e questo nella Londra del 1904, quindi una Londra di inizio secolo, e in 18 di questi veniva praticato pugilato. Quindi era ben presente questo tipo di attività. E tanto che viene citato un libro che io non ho mai letto, in realtà, però ve la butto lì come suggestione, se ve lo andate a cercare, io poi me lo vado a cercare di sicuro. Un libro di George Bernard Shaw che si intitola La professione di Cashel Byron. E che in realtà parla di un pugile, ed è anzi, scusate, anzi, questo libro è stato messo, diciamo, è stato rappresentato a teatro con come interprete James Corbett, che era stato campione mondiale dei pesi massimi di allora. E lo stesso Shaw era un praticante di pugilato. E questa era un po' la situazione inglese. Ora, prima di raccontarvi invece la situazione nello stesso periodo in Italia, interromperei un attimo e vi faccio sentire un pezzo degli Oppressed dedicato al calcio, che si intitola Hooligans. Eccoci qua, siamo tornati dopo questo fantastico pezzo degli Oppressed. Così così, in realtà non è che mi esaltava tanto. Cosa dici? Prima mi rubi il pezzo e poi così e così. Ma io l'avevo messo per denigrarlo, mica perché mi piaceva, che c'entra? Allora, andiamo a parlare dell'Italia. Allora, in Italia, tra l'Ottocento e il Novecento, c'è appunto questa corrente, che in realtà va per la maggiore, almeno fino agli anni venti, così, dell'antisportismo socialista. O meglio, cioè, lo sport viene visto essenzialmente come un'espressione, un'ostentazione quasi, dell'aristocrazia e dell'alta borghesia. Oppure è ritenuto un mezzo essenzialmente utilizzato ai fini dell'addestramento militare o comunque una specie di pericoloso diversivo, tipo l'oppio dei popoli, alla militanza politica e sindacale. Tanto che c'è un documento molto interessante che viene citato della Federazione Giovanile Socialista Italiana, che sostanzialmente era l'ala giovanile del Partito Socialista, nella quale questi giovani, nel terzo congresso che si svolge a Firenze nel 1910, e per questo lo volevo citare, perché questa città è patria di queste affermazioni che vi dirò tra poco. Viene redatto un documento nel quale si condanna sostanzialmente lo sport, ma si dice che non già mai nella Federazione Giovanile Socialista Italiana ci sarà una commissione che si occupi di sport. E perché? È perché ci sono tre punti che spiegano bene le ragioni dell'antisportismo socialista. Allora, il punto A è che lo sport, come viene inteso oggi, nel senso di allora, cioè negli anni all'inizio secolo, non aiuta l'educazione fisica del corpo umano, ma anzi lo debilita, lo rovina e degenera la specie. Io sono d'accordo, tendenzialmente, comunque tutto. Anche Paolo Beccaris la pensavo così. No, Bava Beccaris, comunque... l'ombroso. Ah, ecco, no, perché Bava Beccaris era quello delle biciclette, quello che non voleva le biciclette a Milano. Non ne abbiamo parlato, quindi non anticipiamo niente. Ah, me l'hai detta solo a me, ma non... Credo di sì. No, Bava Beccaris, ma... Ah sì, no, sì, sì, del divieto di biciclette. No, guarda che l'abbiamo parlato del divieto di biciclette. È vero. Quindi era l'ombroso, comunque, che la pensava. L'ombroso, comunque, infatti, era socialista. Era socialista, ha detto una cazzata. Facciamo finta di sì, facciamo voi non lo sapete. No, che me, secondo me non era molto socialista. Allora, al punto B. Allora, che lo sport come oggi è compiuto non serve che a speculazioni industriali più o meno democratiche, ma sempre bottegaie, e ad innescare nelle masse giovanili del nazionalismo gretto e assurdo. Anche questo sono abbastanza d'accordo, certo. Io mi scopro completamente d'accordo con la Federazione Giovanile Socialista Italiana, ci picchia. E il punto C, anche te. Sono vecchio. No, ma in realtà io quello che volevo arrivare a dire è che secondo me le critiche erano giuste e ha sbagliata la conclusione, che poi vi dico perché. Il punto C è che sostanzialmente, e qui parte un po' il socialismo di stampo progressista, cioè il progresso come linea diritta che ci guiderà verso il sol dell'avvenire, che nel secolo delle attività meccaniche ed elettriche si può più facilmente e razionalmente curare l'educazione fisica anziché con i giri d'Italia e le pazzesche maratone, con un approccio razionalista, che non si capisce bene qual è. E inoltre dice che non è che possiamo attirare i giovani nelle nostre file con dei mezzucci, capito? Ma bisogna fare la propaganda schietta, perché è soltanto questa, capito, creerà delle sane coscienze socialiste. E quindi annoiandoli a morte. Ma vabbè. E quindi niente, loro con questo approccio deliberano appunto che nel partito non ci saranno mai sezioni sportive, non avendo bisogno le nostre idealità di nessuna reclam. Ecco, io appunto vi dicevo che io in realtà mi ci trovo abbastanza nella critica che facevano allo sport. Quello che non mi torna per nulla sono le conclusioni, nel senso che cioè, di fronte a uno sport impostato in questa maniera, secondo me te devi costruire un'idea diversa di sport, cioè nel senso che muovere il corpo è una cosa bella, in generale fare sport è una cosa bella, non è che siccome la fanno i ricchi allora noi niente, e neanche appunto ammorbando le persone, poi crei una sana coscienza socialista, credo, no? E se no, e poi tutti scappano a guardare la partita la domenica, fanno bene, cioè sei noioso te. E allora a cosa si faceva, diciamo, perché siamo venuti così male all'inizio? Quello che sostanzialmente butta lì alcuni studiosi, eccetera, facevano appunto notare quello che vi dicevo prima, ma buttato lì proprio a caso, è che la parte, diciamo, lo sport, così come lo conosciamo, in realtà coincide abbastanza con l'inizio dell'inurbamento. Essendo il socialismo italiano di carattere piuttosto agrario, diciamo, non aveva, secondo questi storici, diciamo, quelle caratteristiche che gli facevano apprezzare o comprendere le possibilità che lo sport offriva, o anche semplicemente il capire perché invece poteva piacere lo sport e non c'era niente di male a praticare lo sport. Non è che uno si doveva vergognare se poverino gli piaceva andare in bici o giocare a calcio o correre. Ecco, scusate di nuovo. Abbiamo una netta virata a un certo punto del 1922. Il Partito Comunista d'Italia, anche per sospinta di Gramsci, che vedeva invece nello sport un utile veicolo e, diciamo, dimostrazione diciamo, di quella cultura popolare che a lui piaceva tanto, boom, si cambia. Nel 1922 sostanzialmente viene rilasciato un comunicato nel quale appunto il Partito Comunista d'Italia assume delle posizioni che sono poi abbastanza simili a quelle che abbiamo delineato prima, cioè diciamo, quello che è accaduto in Inghilterra, alle idee più di Marx e Engels sullo sport, eccetera, eccetera. Però fino ad allora accusiamo diciamo, questo ritardo un po' storico, per cui noi ci arriviamo parecchio dopo. E da lì in poi sarà interessante, lo vedremo magari le prossime volte, per non tediarvi troppo, in che modo poi questo lavoro prende forma, ed è forse utile anche per capire poi la genesi delle società sportive, anche, diciamo, di massa attuali. Però non vi anticipiamo niente, anche perché mica ho ancora studiato. E invece andiamo a sentire un altro pezzo che segna un po' la fine di questo discorso con cui vi ho tediato quest'oggi. Il pezzo in realtà è un pezzo di puro Northern Soul, quindi è più un omaggio all'Inghilterra che all'Italia in realtà, che si intitola You Don't Want Me No More di Major Lance. I've got to keep on. Eccoci, tornate sempre su Wombat Radio. Se non dicevi oh cavolo, non se ne accorgeva nessuno che ti eri distratta. Ero spaccata a chiacchierare, a pensare agli affari miei. E adesso, dopo questo bel pezzo di storia al quale ci ha introdotto Gino, ci rilassiamo un attimo. È tempo della rubrica La solitudine del maratoneta, rubrica in cui raccomandiamo e recensiamo film e libri, e molto brevemente oggi vi consiglio un film, anche perché io, al contrario del mio collega Gino, non sono una che ama spoilerare i film e i libri, per cui proprio due parole. Allora, il film di oggi si intitola Machan o Macan, non so come si pronunci, La vera storia di una falsa squadra. È una commedia del 2008 diretto da Umberto Pasolini, che sicuramente voi ricorderete come produttore di Full Monty, ed è la storia di due ragazzi poveri e esasperati dalle condizioni lavorative in un contesto urbano periferico dello Sri Lanka, che scovano in un giornale un annuncio che invita la nazionale dello Sri Lanka di pallamano per un torneo in Germania. Il punto è che lo Sri Lanka non ha una nazionale di pallamano, e questi ragazzi che nel corso della storia hanno provato varie volte a uscire dallo Sri Lanka per ottenere dei permessi di lavoro, ma non sono mai riusciti, decidono di costituire una squadra e quindi poi eventualmente fuggire una volta arrivati in Europa. Qua puntini puntini puntini, vi dico comunque che il titolo La vera storia di una falsa squadra ci chiarisce anche che si tratta di una storia vera. Io ve lo consiglio, è un film molto molto piacevole. Non è né eccessivamente drammatico né eccessivamente comico, funziona bene secondo me, anche perché comunque il tema che va a trattare è serio, quello della disperazione in un contesto lavorativo abbrutente. E quindi adesso vi metto un pezzo degli UK Subs, Warhead. Siete fortunati che fino l'ho visto, se no io ve lo spoileravo tutto subito. Thank you. Eccoci ancora ai microfoni di Radio Wombat e prima di iniziare la playlist for runners sono sicura che molti di voi vogliono avere più informazioni sulla pallamano, questo strano sport. E è uno sport che si gioca 7 contro 7 in due tempi da 30 minuti ciascuno, rigorosamente indoor. Credo che fino agli anni 60 fosse concepito anche per essere praticato all'esterno. C'è la variante comunque da mare, il beach handball, e si gioca in un campo di 40 metri per 20, molto simile di dimensione a un campo di calcio a 5. Viene definito lo sport più veloce, il più veloce sport di squadra con la palla. In effetti a vederlo è molto molto dinamico è anche piacevole secondo me, non siamo abituati perché almeno qua in Toscana io credo, l'ho provato una volta io, però non aver mai neanche sentito parlare di una squadra. E ha comunque delle origini rintracciabili nell'antica Grecia. Diciamo, lo sport, le regole sono moderne, è recente come impostazione, però le origini vengono rintracciate nell'antica Grecia, nel cosiddetto gioco di Urania, e esistono testimonianze di un gioco simile anche nell'antica Roma, l'Apaston. Ora, la versione moderna, è stata inventata nel 1907 da tale Max Eiser, che era un professore di educazione fisica tedesco, e l'aveva chiamato Thornball. Poi viene ribattezzato handball da Karl Schlezen. Era un gioco, cioè le regole del gioco sono basate su altri giochi diffusi in Germania, Austria e Ungheria, verso la fine dell'Ottocento. Per concludere questo excursus sulla pallamano, vi dico che nel 1920 Carl Diem ne organizza la forma attuale e nelle Olimpiadi del 1936 di Berlino, delle quali abbiamo parlato le volte precedenti, viene introdotto per la prima volta. E il cerchio si chiude. Ah sì, volevo dire una cosa divertente, almeno io la trovo molto divertente. Vabbè, i ruoli. Nella squadra abbiamo detto sono sette giocatori, portiere, centrale, pivot, terzino destro, terzino sinistro, ala destra e ala sinistra. Io ho trovato molto divertente una tattica, ora non saprei, una mossa del portiere per oscurare lo specchio della porta perché bisogna fare gol all'avversario. Si mette in posizione di pelle d'orso e quindi credo che a braccia e gambe, no, forse le gambe no, non si sa, bisognerà indagare. Si avvicina all'avversario e chiude lo specchio della porta. E comunque non c'è niente da ridere, cioè so che in realtà è uno sport molto violento anche questo, perché la porta è piccola, per quello il portiere, io ci ho giocato dai Ma salesiani. io avevo letto che non è violento, anche perché ti fischiano qualsiasi Allora cosa. ti fai malissimo, capito? Perché quella palla è piccola ma durissima. E il portiere è sostanzialmente questo martire che veramente abbraccia come un Cristo praticamente. Lui si mette a copertura di tutta la porta e poi va a fare una roba tipo il terzo tempo del basket, per cui tu non puoi entrare nell'area, diciamo, di rigore con i piedi, ma puoi arrivarci in salto. Quindi se puoi praticamente saltare in faccia a sto povero portiere e poi con sta palla, cioè, che scanocchiargliela addosso. Il trucco dove sta? Nel fargli male, perché tanto poi così lo elimini e poi lui non gioca più. Quindi la palla, anche se non fai gol, tu gliela devi tirare proprio in faccia, tanto quello ti si piazza davanti così con le braccia aperte e le gambe spalancate a coprire, e tu tenti di colpirlo dove fa male. È molto brutto anche perché io all'ultima partita giocando da portiere sono stata stesa da un calcio tirato da metà campo, da un calcio, Vedi però che però da sei una pallonata. contraddittoria, te lo sai che è uno sport violento, allora perché non lo dici? Ma io la pallamano non la conosco molto bene. Addirittura ho letto il regolamento e c'è scritto che è vietato molestare l'avversario. Io non so cosa voglia dire. Perché è uno sport di contatto, non è che puoi andare lì a dargli noia, capito? Cioè, bisogna mantenere un certo fair Quindi mi play. Ciò non toglie immaginavo. che comunque sia uno sport violentissimo, violentissimo. Io ci andavo qua, giocavo quando andavo a scuola dei Salesiani, che comunque sono un ordine religioso dei più efferati, è noto, è noto. Capito? Vabbè, Che ci ti ha crescevano traumatizzato. così, con il sole e l'acciaio, capito? Temprati. Che poi non giocavamo indoor, noi giocavamo in pieno inverno con le mani gelide, capito? Quando la palla ti colpisce in faccia, capito? E la faccia ti casca. Era questa la Che queste situazione che sono le vivevamo. regole prima, durante gli anni 60. È comunque uno sport un po' antiquato, certo. Io infatti lo associo al mio ed insegnante di educazione fisica che aveva una bellissima tuta bleu di quelle della Superga che andavano un sacco nei film, quelli di Pierino. Con Alvaro Vitali, cioè lui aveva una tuta uguale, ma il mio insegnante di ginnastica era molto più, era alto, alto, alto, alto e gli piaceva un sacco la pallamano, appunto per questa estrema violenza. Benissimo. E dopo questo così breve Sfogo, si chiama sfogo, va bene? Io ogni tanto mi sfogo di vengono fuori Gino, queste cose, io le devo buttare fuori, va bene? Sono stato male io, starete male anche voi a sentirmi. vi mandiamo uno dei pezzi punk che io preferisco, ed è uno dei primi pezzi che si avvicina a lui in realtà, questo per fare un po' di cultura musicale. È un pezzo dei Blitz, New Age. Io non sono d'accordo che si avvicina a noi, secondo me si avvicina alla New Wave, è un bellissimo pezzo di New No, Wave, i sì. kids sulle strade, Il no. testo, ma senti la musica quanto è New Wave, è Non sono bellissimamente New d'accordo, non Wave. sono d'accordo. C'erano delle Ora lo contaminazioni. mettiamo e uno solo di noi due sopravviverà al pezzo. Tocca fare ammenda e vabbè, è entrato il frontman di Carlos Dunga e ha sentenziato che il pezzo è New Wave. Io continuo a non essere d'accordo assolutamente, e anche anche Gino ha detto, però il pezzo pestato effettivamente si avvicina alla prima OE. Ti posso trovare mille pezzi in Orden Sol che pestano uguale. È il classico 4 quarti pa pa pa pa pa pa pa pa, cioè non c'entra niente. Il tiro è chiaramente New Wave. Vabbè, il tiro è New Wave. E ora possiamo finalmente cambiare rubrica. È il momento della playlist for runners, perché io oggi sono andata a correre, tra l'altro a fortuna di tutti, perché non so come sia possibile, ma io e Gino, oltre a scegliere dei pezzi musicali identici, avevamo anche pensato alle stesse tematiche. Poi ho detto, ma con questo sole io prendo tempo per andare a correre e fare più gli affari miei invece di mettermi a studiare, e quindi è andata bene, perché se no vi avremmo ammorbato per un'ora e mezzo sullo stesso argomento. Io volevo parlare di Gramsci e lo Scopone e della nascita di altri degli enti sportivi e associazioni italiane. Io avevo parlato di Marx e Engels, quindi... Meno male che io sono vecchio e non ce la fo più a correre. Non è la mia anca ormai. E allora, oggi la playlist for runners di oggi. Allora, quando si va a correre nel proprio MP3, siamo da sole con le nostre cuffiette e quindi possiamo mettere anche delle canzoni che così ci vergogniamo un po' di ascoltare davanti agli altri e ce le rivendichiamo poco. Io oggi ho creato questa playlist e l'ho usata, insomma, ora per voi ho estratto solo 4 pezzi, però... l'ho usata andando a correre e funziona, quindi ve la consiglio. Allora partiamo. I pezzi di musica italiana, magia italiana, e niente, per voi ho scelto Anna Oxa, Un'emozione da poco. È un film, è una canzone che ho sentito recentemente in Lo chiamavano Gig Robot, e quindi mi sono un attimo piantata e quando vado a correre me lo metto. Quindi questa è... di cosa ti vergogni di questa cosa qua? Vabbè, dai, Anna Oxa, Anna Oxa. Hai ragione, in effetti. Per te una sfumiamo questa bomba di pezzo, uno perché non sappiamo se ce lo siamo dimenticati ed è ripartito da solo, o se no semplicemente era noioso come la morte, e ora sì, no, prossimo piace pezzo. Molto la musica che io scelgo. E allora siamo al secondo pezzo, una tipologia di pezzi che io mi metto spesso nelle cuffie, e siamo alla musica punk, però quella da teenager. Questo è un pezzo di Jimmy Eat World, The Middle. Oh, e parte così di brutto. Bomba sto pezzo, è fortissimo, cioè mi sento ringiovanito di non vabbè, so ora, 15 anni. Non sono dei pezzi così terribili. No, no, era una bomba, c'era questa pirula a metà, poi tutto oh oh oh oh oh oh oh oh oh, cioè aveva bomba. Prego. Lui deve boicottare per forza questa rubrica in generale, deve boicottare il fatto che delle persone ascoltano la musica quando vanno a correre, e a volte ascoltano anche della musica di merda, e la cosa li emoziona, li fa stare bene. No, lui no, è... ma noi siamo qui per capirti, Gine, per cioè, tutti i tuoi problemi, tu esprimiti, vai, vai, continua, è interessante. Eccoci al terzo pezzo. C'è un momento nella corsa, nelle lunghe corse, io vi parlo delle mie corse, sono un'ora, un'ora e mezzo, quando ce la faccio anche due, in cui si arriva al momento dello struggimento indie. E quindi questo... In che fase arriva della corsa precisamente lo struggimento indie? Ma a me arriva verso la fine dell'andata. E... Poi no, nulla, perché al ritorno si va più veloce, questo ricordatevelo. All'andata si parte piano e si aumenta gradualmente. Quindi tu comunque a priori scarti i percorsi circolari. Perché? Perché sennò non c'è un'andata e un ritorno. Cioè, c'è un andata e un ritorno solo se vado quasi più simpatico e della poi mia torno indietro. Se il percorso è circolare, playlist. non. Secondo me preferiscono ascoltare la mia musica. Ma era una mia considerazione filosofica ben precisa. Volevo inquadrarti da quel punto di vista, ma se non vuoi esprimere, cioè non vuoi confidarti con noi, va bene. Se spiegaci il prossimo pezzo, Prossimo pezzo, hai rovinato il momento. allora. È la Vabbè, mia adesso specialità. Sono quello che è spoiler i film, rovino i momenti. Dico la incerto. cosa giusta nel momento sbagliato. Sono qui per questo. Questo è Never Be Mine di Angel Olsen. Ancora qui, siamo all'ultimo pezzo. Prima di lanciarlo, volevo salutare Gabri e Giorgia in Svizzera perché oggi sono andata a correre con la Molly e quindi che è il loro cane. Ah, era utile anche. E anche il cane ascoltava Angel Olsen e Anche si il cane, commuoveva. scusa, è un cane mitico e abbiamo la fortuna di avere un cane con cui si riesce a correre molto bene e quasi mi dà il passo, E con sinceramente. un carattere un po' melanconico perché ascolta Angel Olsen, si commuove.

che fanno luce su noi disperati in giro, persi nei viaggi, nei discorsi da capogiro. Fai un tiro, poi saluta chi ti sta vicino, per chiudere gli occhi a primo mattino. E questi erano i DS a comando, noi ci avviamo verso la chiusura e ci potete riascoltare tutte le domeniche alle 18:15 su wombat.noblogs.org. Lanciamo l'ultimo pezzo, un pezzo che ci ha richiesto e dedichiamo alla Paolina, un pezzo anarcho-punk, va bene? Va bene, sei abbastanza precisa questa volta, va bene. Ok, cos'altro sai? Fammi sentire, poi cos'altro sai? Cos'altro so? No, sei te quello che devi illuminarci. Un pezzo di Quinto Braccio, pisceremo sulle vostre tombe. Quinto Braccio era uno storico gruppo punk torinese legato al collettivo Avaria. E la voce del Quinto Braccio era anche poi quella del gruppo successivo I Panico, che forse conoscerete, forse no, ma se no chi se ne frega. Io sono uno sfoggio di erudizione, cioè non me ne frega niente che di dirvi queste cose. E aveva il cantante ha questa caratteristica remoscia molto molto torinese, molto molto particolare. L'apprezzerete soprattutto per la qualità della registrazione che siamo riusciti a trovare. Quindi pisceremo sulle vostre tombe. Quinto Braccio. E saluti. E saluti anche. Dai, dai, che sta registrando. Yeah.